1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alla fine ormai dell'88esima settimana decisiva per la riforma elettorale e per l'abolizione delle province. Siamo qui alle 7:18 minuti ormai. Oggi torneremo a parlare di quello che è successo in Francia, avremo vari ospiti. Il dibattito in Italia ormai è degenerato sulla questione scontro di civiltà, Islam buono, Islam non buono. Avremo ospiti diverse persone. Avremo ospite il presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche, Izzedine Elzir. Avremo Giuliano Ferrara del Foglio. Avremo un famoso islamologo islamista, è un padre gesuita nato in Egitto, cresciuto in Libano. Si chiama padre Samir Khalil Samir, che ritrovo con piacere dopo un po' di tempo e che è un profondo conoscitore delle varie culture, delle varie religioni monoteiste. Ce la faremo anche ad avere, spero, per pochi minuti Gérard Biard, caporedattore di Charlie Hebdo, la rivista che è stata duramente colpita. Vedremo se sarà con noi alle 8:15. Intanto andiamo a leggere i giornali che anche oggi dedicano grandissima parte delle loro pagine a questa tragedia. Questo venerdì 9 gennaio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore come titolo principale torna sulla questione finanziaria, Draghi fa volare le borse, acquistiamo titoli di Stato, questo è il titolo di prima pagina, anche se c'è una grande inchiesta che tra poco vi leggerò di Claudio Gatti proprio su petrolio e racket, i finanziamenti del nuovo terrorismo. Il Corriere della Sera invece ha un titolo che colpisce come un pugno nello stomaco, la polizia li conosceva da anni, questo è il titolo di prima pagina, la grande caccia ai due presunti killer, un'indagine su di loro fu archiviata nel 2012. Per Repubblica Charlie sfida al terrore. Il Fatto Quotidiano invece è il giorno degli sciacalli, mentre la Francia si ferma e spegne le sue luci. Ecco gli sciacalli che sono Marine Le Pen che invoca la pena di morte e in Italia Salvini che attacca il Papa. E anche tra gli sciacalli, scrive il Fatto, la Rai di Gubitosi che non dedica nessuno speciale alla tragedia di Parigi. Libero, dopo il titolo di ieri, questo è l'Islam. Ne abbiamo discusso fino a poco fa con il vice direttore Massimo De Manzoni. Il titolo di oggi è vietato parlare di Islam, altro che libertà di stampa. Mentre Il Giornale ha questo titolo inquietante, li abbiamo in casa, i macellai islamici. Il Messaggero, caccia ai killer, moschee assaltate, mentre Avvenire sangue su sangue. La Stampa invece ha una doppia copertina, una prima pagina dedicata proprio a tutte le vignette che sono state create dopo questa tragedia. La pagina principale invece, Parigi, la grande caccia ai terroristi. Ma a proposito di cronaca, beh, è abbastanza incredibile che ci siano 88.000 agenti speciali della Francia e due fratelli in fuga e nessuno sa dove siano. Eppure non debbono godere di grandi appoggi, perché come hanno fatto sapere gli inquirenti sono dovuti fermare per fare una rapina a un benzinaio e quindi recuperare della benzina, recuperare dei soldi. Evidentemente avvistati e braccati da 88.000 agenti, ma i due fratelli sfuggono ancora. Questo è il titolo della cronaca di pagina 2 del Corriere della Sera. Come è abbastanza incredibile la serie di errori, evidentemente misteri. Qualcuno già, ovviamente, avete sentito, urla al complotto, ci mancava, che si sono inanellati, e scrive il Fatto Quotidiano in una pagina, pagina 3, Luana De Micco, la Francia stralunata, ostaggio dei killer sbadati. Beh, certo, il festival delle incongruenze, per non dire degli errori grossolani da parte degli assassini, ma anche delle istituzioni. Se non vi fosse di mezzo una strage che toglie il fiato, scrive il Fatto, si potrebbe pensare a una pantomima, a uno di quei copioni francesi con le avventure della Pantera Rosa. Ma iniziamo da quella mattina di sangue. La carta d'identità dimenticata o lasciata cadere per sbaglio nella Citroën C3 abbandonata per strada nel nord di Parigi. L'hanno offerta su un piatto d'argento agli inquirenti. La prova della loro colpevolezza, gli assalitori che mercoledì hanno fatto la strage nella redazione di Charlie Hebdo. Un errore commesso nella precipitazione della fuga? Certo, non si addice a due esperti assassini che sanno come si maneggiano le armi da guerra e sparano a sangue freddo su chi non si può difendere. Eppure accade. È quella la carta d'identità a mettere gli inquirenti sulle tracce dei fratelli Quasci. E poi, la scarpa che viene persa e viene poi recuperata davanti durante l'operazione. Ma certo, gli errori più clamorosi sono quelli delle autorità francesi. Charlie Hebdo, che non era controllata da agenti, nonostante ci fossero stati degli attentati nei loro confronti, la redazione negli anni. E poi una semplice omonimia che dirotta gli uomini francesi in un raid verso un appartamento di Pantin dove si cercavano tre uomini. Il terzo è Hamid Mourad, che viene presentato come il complice dei fratelli Quasci e che invece dice: ho un alibi di ferro, durante l'azione ero al liceo, seduto al mio banco a seguire la lezione di storia. Di lui da ieri non si sa niente, gli inquirenti francesi non dicono più niente. Ma sembra una vicenda davvero da Pantera Rosa, come scrive, no, dell'Ispettore Clouseau, anche se non si può sorridere troppo su questa vicenda, visto che è una tragedia, ci sono 12 morti. 12 morti, poi c'è un'altra gente morta ieri. Mistero anche su questa uccisione, l'uccisione di Clarissa, questa agente di polizia che era ferma nel traffico, c'è stato un incidente e Clarissa Jean-Philippe viene chiamata insieme a un collega, interviene, come scrive pagina 3 del Corriere della Sera Davide Frattini, a un certo punto da una macchina in sosta in fila spunta una pistola, le spara la gola. Chi ha sparato? Non si sa. È collegato all'attentato di Charlie Hebdo? Non si sa. In questo momento la Francia davvero è nel terrore più puro, come potete immaginare. Perché anche scoprire, come si legge da tutti i giornali, che questi due fratelli, Sherif e Saïd Quasci, siano cresciuti letteralmente in Francia, siano prodotti, siano figli della Francia, a sapere, a leggere, come racconta la stampa pagina 6, che uno di questi, soprattutto Sherif, fumava, beveva, era in piccoli giri di droga, con vizi poco islamici, diciamo così, come scrive la stampa, no? Davvero non era un convinto seguace della religione islamica. E sapere tutto questo impaurisce sempre di più. Il minore dei fratelli killer aveva tentato anche di andare in Iraq, aveva tentato di far evadere uno stragista. Erano entrambi da anni sulla lista no fly per gli Stati Uniti, cioè non avrebbero mai potuto prendere un aereo per gli Stati Uniti perché erano su una lista di possibili terroristi, possibili minacce. Erano seguiti dalla polizia da anni. Nel 2012, scrive il Corriere della Sera, una inchiesta su di loro fu archiviata, non c'erano le prove. E che bisogna aggiungere? Insomma, come minimo una serie di errori clamorosi hanno portato alla sottovalutazione di queste due figure che ora sono considerate responsabili di questa tragedia. Oggi Claudio Gatti sul Sole 24 Ore, tra l'altro, fa un'inchiesta molto approfondita e molto interessante dal titolo "Petrolio e racket, così si finanzia il nuovo terrorismo". E scrive Gatti: "Nessuno lo dice, ma la realtà è che 13 anni di sforzi per tagliare i finanziamenti al terrorismo islamista non hanno prodotto grandi risultati, anzi. La rete fondata da Osama Bin Laden e nata da una sua costola è oggi finanziariamente più ricca che mai. Che le organizzazioni terroristiche islamiste siano oggi più ricche di prima dell'11 settembre non è un'esagerazione giornalistica, l'ho dichiarato apertamente la persona che su questa materia ne sa più di qualsiasi altra al mondo, cioè David Cohen, sottosegretario per il terrorismo e l'intelligence finanziaria del Tesoro americano. In una seduta tenutasi al congresso il 14 novembre ha detto che l'ISIS ha accumulato un patrimonio senza precedenti ed è l'organizzazione terroristica meglio finanziata di sempre. e aggiunto non abbiamo soluzioni miracolose né armi segrete per svuotare le sue casse. Insomma, l'ISIS non è solo l'organizzazione terroristica più grande al mondo, è anche la più ricca. Così ricca che quando non vi erano ancora contatti tra loro, Al-Qaeda gli aveva chiesto un prestito di $100,000. Così ricca da avere caveau pieni di denaro e metalli preziosi. Insomma, dal punto di vista della potenza di fuoco economico-finanziario, ISIS è una sorta di Al-Qaeda 2.0. Questo Claudio Gatti, leggetelo sul Sole 24 Ore, perché davvero... È abbastanza inquietante. Poi qui in Italia ci sono le polemiche politiche. Salvini è quello più esposto. Ieri ha criticato addirittura il Papa, beccandosi una replica un po' stizzita oggi da Avvenire a pagina 9, in un commento che non ha firma e quindi diciamo ascrivibile in qualche modo alla direzione di Avvenire, Marco Tarquinio. Si legge: al segretario della Lega un piccolo consiglio nel suo idioma preferito, o felè fa il tuo mestiere, cioè pasticcere fa il tuo mestiere, che a fare il Papa predicando il Vangelo e difendendo i cattolici Francesco se la cava piuttosto bene, perché ieri Salvini ha definito il Papa il portavoce dei cattolici, scrive Avvenire, neanche fosse l'addetto stampa di un partito. Quanto piace a noi cattolici la libertà soprattutto di espressione, scrive Avvenire. In realtà Salvini oggi fa una intervista a Libero nella quale si difende a tutto tondo e dice: attaccano più di me, attaccano più me di Al-Qaeda, è incredibile, per certi versi considero tutto questo un fuoco amico, questi qua stanno dall'altra parte della barricata e non capiscono che l'Islam è pericoloso, aggiunge Salvini scandendo, e invece danno a me del nazista, è pazzesco. Per esempio Lia Quartapelle del PD, che Salvini ha definito squallida, è stata imbarazzante, ha detto che non si deve parlare di terrorismo islamico, difende l'indifendibile, quelli che sparavano a Parigi urlavano Allah è grande, e la Quartapelle ha ribattuto citando la strage del norvegese Breivik. È l'unico caso che citano per dire che non ci sono solo assassini islamici, ma quello, dice Salvini, è uno psicopatico che tutto il mondo ha condannato e condanna. E poi su Oliviero Toscani, che mi ha dato del nazista, vedrò se fargli la terza querela. Comunque penso a che cosa? Alle risate degli estremisti islamici mentre sentono queste cose. In Occidente ci stiamo facendo del male da soli. Così Salvini, che poi conquista continua in questa intervista, la crociata di Salvini, attaccano più me di Al-Qaeda. Vabbè, a proposito di vignette... due cose ancora prima della pubblicità. Calderoli, sapete che Calderoli fece quelle vignette, mostrò in TV la maglia con il disegno ironico sull'Islam. Oggi fa un'intervista al Giornale, intervistato da Francesco Kramer, dice: sapete che dopo quelle vignette nel covo di un terrorista trovarono foto di casa mia e il percorso che facevo di solito? Insomma, volevano uccidermi. In una pizzeria da sport da Bergamo che frequento lasciarono un dépliant con le istruzioni per farmi fuori. E poi dice: ma lo sa che io non mi dimisi mai per quella vicenda. Andò così, un'agenzia di stampa anticipò che avrei lasciato il governo e il premier accettò le mie dimissioni, che non ci furono in realtà mai. E ancora, gli scontri di Bengasi in Libia, dove ci furono 11 morti, vi do una notizia, non c'entravano nulla con me e la mia maglietta, erano una manifestazione contro Gheddafi e l'esercito sparò sulla folla. Questa è la verità di Calderoli. Vabbè, tralascio l'idiozia di Marine Le Pen che propone un referendum sulla pena di morte. L'ho già detto anche prima, se si propone un referendum su queste cose è chiaro che passa con l'80% di sì, ma su queste cose non negoziabili uno Stato civile non propone referendum, perché uno Stato civile è uno Stato che ha fatto qualche passo in più rispetto al Far West e ai cavernicoli, visto che siamo uno Stato con delle regole. Ma comunque c'è anche questo: chi chiede la pena di morte per referendum? Vabbè, prima della pubblicità, come sapete, però io dico sempre l'articolo che mi fa cazzare della giornata, e allora lo dico anche oggi, lo cito anche oggi. Veniamo in Italia, cose italiane, Riccardo Bruno sul Corriere della Sera, pagina 27, è questo l'articolo che mi fa pensare oggi, è l'articolo della scuola dove stanno a casa 4 prof su 10, succede alla Santi Bivona di Menfi in provincia di Agrigento dove 70 su 170 dipendenti si dichiarano malati o parenti di disabili e usufruiscono di quella legge 104, legge sacrosanta per assistere i parenti disabili. Tutti lì, tutti disabili. 70 su 170. Inizia il reportage del Corriere della Sera con la vicepreside che attende all'ingresso il cronista e dice: no, tranquillo, io non ho la 104. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Milan, ma tu al mattino bevi? No, neanche il caffè, peraltro, caro ascoltatore. Non bevo neanche il caffè, purtroppo. Nel senso che fino alle nove non lo bevo. È così. E qualcuno mi chiede sempre: ma come fai a svegliarti ad essere così sveglio? A parte che chi l'ha detto che sono così sveglio? e poi che devo fare? Non lo so, volete che parlo così assonnato? No, cerco di svegliarmi, è il mio lavoro, mi pagano per questo. E lo devo fare. Allora. A proposito d'Italia, visto che questa cosa che ho detto sulla scuola ci riporta un po' in Italia, però i riflessi di quello che è successo in Francia ricadono sull'Italia anche ancora da due notizie che voglio leggervi dai giornali. La prima è quella che Fausto Biloslavo, a pagina 3 del giornale, racconta e con un titolo abbastanza allarmante. I comandanti dei fratelli killer andavano in moschea a Milano. Questo è il titolo di prima pagina. Dietro l'addestramento di Sherif e Said Qureshi c'è una scia che va dall'Italia alla Tunisia. I capi del movimento jihadista che li ha reclutati frequentavano fino a qualche tempo fa il centro di Viale Jenner, il centro islamico di Viale Jenner. Un'inchiesta che guidò, che fece Stefano D'Ambruoso, oggi deputato, quando allora era PM, e fece condannare anche ed espellere in Tunisia, dove finirono in carcere alcuni considerati i capi della cellula che hanno reclutato in qualche modo questi due fratelli. È tutta un'intricata serie di nomi per dire però nel titolo che i comandanti di questi fratelli killer frequentavano il centro islamico di Viale Jenner a Milano. Ecco allora che quando il giornale titola in prima pagina com'è più il titolo, eccolo qua, li abbiamo in casa, in qualche modo non va tanto distante, anche perché poi insomma la casa, la nostra casa ormai Milano, Parigi, non è che Roma, Napoli, non è che fa molta differenza, è un tiro di schioppo, è un'ora e 10 minuti di aereo. Sempre a proposito d'Italia, oggi il ministro dell'interno Alfano parlerà alle 9:30 e illustrerà le misure italiane per fermare i combattenti. Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera anticipa qualcosa a pagina 13. Espulsioni più facili, controllo del web, militari, nuovo reato inserito contro i viaggi della jihad, cioè coloro che vanno a combattere in terra straniera. In zone di guerra dove vanno a fare la jihad, appunto, questi sono alcuni degli strumenti che sono poi dettagliati a pagina 13 e che verranno oggi illustrati dal ministro dell'interno Alfano per cercare di fare una stretta anche nei confronti dei cosiddetti 53 foreign fighters che sono passati per l'Italia. C'è da dire che in questa furia terroristica oggi spicca anche sui giornali le pagine dedicate a quello che sta succedendo in Nigeria, dove lì pare che in un paio di giorni abbiano ammazzate 2000 di persone. Massacri in Nigeria, cadaveri per le strade, e chi ha commesso questi scempi sono l'organizzazione Boko Haram. Questa organizzazione che significherebbe, secondo alcune traduzioni, l'educazione occidentale è peccato, è una organizzazione jihadista che ha lanciato una campagna militare per creare uno Stato islamico fin dal 2009 e racconta al Corriere della Sera che in alcune zone della Nigeria si trovano cadaveri ovunque, case bruciate, soprattutto a Baga, località affacciata sul lago Chad, rasa al suolo dai miliziani di Boko Haram. 2000 gli abitanti uccisi, ipotizza un funzionario locale in un'intervista alla BBC, una vera e propria ecatombe. L'inferno è vuoto e tutti i diavoli sono qui, reagiscono su Twitter alcuni nigeriani che a corto di parole per raccontare l'orrore le prendono in prestito da Shakespeare. Baga, già messa a ferro e fuoco all'inizio del 2013, una delle poche località del Borno non ancora passate sotto il controllo del gruppo islamista, ora i resoconti un po' ancora poco specifici, poco pieni di dettagli, raccontano è stata messa a ferro e fuoco, 2000 morti. Come dire, è chiaro che l'attualità internazionale prende gran parte dei giornali, fa un po' specie fare un salto, una capriola e venire alle vicissitudini del racconto della politica italiana, sempre così stantia, ripetitiva, sempre uguale a se stessa, sempre piena di questi chiacchiericci inutili e sterili che non portano a nulla di concludente e conclusivo, e oggi ancora di più, ecco, ho fatto questa premessa per arrivare a parlare della corsa al successore di Giorgio Napolitano, della legge elettorale, delle manovre per il Colle. Capite quanto stridono tutte queste cose rispetto? Eppure i giornali ovviamente contemplano anche queste notizie. E allora avanti così. Si segnala dal punto di vista politico la giornata per l'intervento di Bersani, che chiede a Renzi: sul Colle bisogna ripartire da Prodi. La minoranza del PD, scrive Monica Guerzoni a pagina 20 del Corriere della Sera, non molla l'osso sulla cosiddetta salva Berlusconi, anzi prova a morderlo con più forza ancora. L'ala sinistra del partito del Premier, che si è riunita per serrare i ranghi, chiede a Renzi di spiegare in Parlamento com'è andata sul pasticcio fiscale, ancora su questa vicenda di cui non si sa chi sia stato l'artefice, anche se Renzi dice la manina è mia, e Bersani risponde: lui dice che la manina è sua, a me piace la franchezza ma non riesco a fargli i complimenti. E poi c'è Pippo Civati, figurarsi se non c'è un giorno senza la dichiarazione di Pippo Civati, che presenta con Sell un emendamento sul conflitto di interessi. La legge vergogna è opera della manona di Renzi, presenta le cose con Sell, e poi Pippo Civati si sarà arrovellato per la 5387esima volta se uscire o no dal PD, uscire o no dal PD. Non sto sfasciando il microfono, se sentite dei rumori strani può capitare. Comunque, il dato di fatto è questo per quel che riguarda l'azione politica di Bersani sulla vicenda Colle e sulla vicenda della norma fiscale, dei decreti fiscali. Ma noi abbiamo come sempre qua la manona, la manona. Mauro Meazza è stato lui, confessa. Buongiorno Alessandro, no, nego decisamente perché, anche perché, scusami, ma io l'avrei scritta peggio di questa norma dubbio, qua. Questo non c'è dubbio. Non avrei fatto una norma che poi magari si capiva, eccetera, eccetera, avrei scritto una cosa peggiore. Non so bene come ci sarei riuscito, ma sono sicuro che ci sarei riuscito. Voglio dirti, a proposito di mani, manine e manone, che sia, come ti dicevo già ieri, sia prossima questo accordo Italia-Svizzera sul fisco. È giusto. Sei contento? Sei contento? Io sono asettico. No, come asettico? Quei due urini che ci sono caduti a Lo sapevo, lo sapevo. E tu continui a ignorarli, ma guarda che adesso è il momento, perché se c'è questo accordo ti fanno anche uno sconto sulla voluntary disclosure, hai capito? Bisogna che anche tu ti familiarizzi con questi termini inglesi, voluntary disclosure, cioè tu insomma ce lo dici, dai, ti sono caduti di tasca e poi ti sei dimenticato, può succedere, beh, sappi che se vuoi sapere, vuoi conoscere tutti i particolari, puoi andare come al solito sul Sole 24 Ore, oggi sulle pagine Norme e Tributi, già che riporti di qua i due urini, se non sai cosa farne, oggi ti diamo anche how to spend it, cioè come spenderlo. questo denaro che ti riporti. No, scherzi a parte, cioè effettivamente in edicola oggi, veramente in edicola, How to Spend It, come sapete, magazine del Sole 24 Ore. C'è invece qualche ritarduccio, accidenti, non solo sulla delega fiscale, caro Alessandro, ma anche sul Jobs Act. Ah, temevo sulla legge elettorale. No, lì è sempre la settimana decisiva, sì. No? Sì. Non so, io seguo sempre Alessandro Milan tutte le mattine, mi dice che è la settimana decisiva e non ho motivo di dubitarne. No, sul Jobs Act c'è qualche problemuccio. Sì, di copertura. Però ho letto sul Sole 24 Ore di oggi che dovrebbero farcela a portare in Parlamento i decreti attuativi settimana prossima, quindi diventa una settimana, io non vorrei dirlo, non vorrei rubarti il lavoro, ma settimana prossima diventerebbe una settimana decisiva. Ci siamo capiti, ecco, vabbè, sarebbe una settimana decisiva. Oh, e poi a proposito di lettere, invece, di testi, c'è questa cosa molto importante per le banche, questa lettera della BCE che chiede di alzare ancora i requisiti patrimoniali, requisiti patrimoniali per la solidità delle banche. Ne riferiamo non sulle pagine di norme e tributi, questa volta sulle pagine di finanza, di finanza e mercati. È parte importante, speriamo che non sia, come dire, doloroso per l'erogazione del credito. Questo ti volevo dire. Riprende il campionato, perché non abbiamo parlato tanto del campionato. No, mi sembrava che si fosse giocata una partita anche proprio alla Befana. No, la Befana era infrasettimana, si gioca di domenica il campionato. Ma a me è sembrato che si fossero giocate le partite, però siccome non c'era nessuno con cui parlarne poi la mattina dopo, che fa il giornalista dovrebbe essere informato. Hai ragione, però anche tu sei lì che vivi in mezzo ai giornali, ti diamo una chilata di giornali tutte le mattine, scusa, non ti sei accorto se con quello che mi sono accorto che non c'era, che il campionato giocano sabato e la domenica, ecco questo. Giocano sabato, non ti risulta niente su martedì scorso, Che ti devo dire? No. Vabbè, allora senti, io vado a cercare un attimo se mi danno degli arretrati in redazione, così magari di quelli che hai avanzato tu, che hai scartato e non hai voluto vedere. Ecco. Nel frattempo, caro Alessandro, buona domenica, ma soprattutto traffico! Alessandro Milan, il Rocco Siffredi dell'informazione. Ecco, questa ci mancava. Vabbè, a tutti quelli che mi scrivono ancora la pena di morte, sì, sono contro la pena di morte, si può essere contro senza se e senza ma alla pena di morte? E quelli che mi dicono, ma allora gli Stati Uniti che hanno la pena di morte sono un paese barbaro, secondo te? A parte che non tutti gli stati degli Stati Uniti hanno la pena di morte. E poi, che vi devo dire? La pena di morte è una pratica barbara, incivile, inutile, dispendiosa, stupida, rozza, volgare, arretrata, schifosa. Devo continuare? Questo io penso così, basta, non discuto su tutto e su tutti e con tutti, tranne con chi pensa su questo tema della pena di morte. Me lo insegnò Derek Rocco Barnabei, condannato a morte in Virginia nel 2000, da allora penso così, in maniera convinta, e niente e nessuno mi farà cambiare opinione. Va bene? Voi restate della vostra, chi se ne frega su questo tema. Allora, sulla politica, la notizia del Messaggero è questa, ed è un titolo sparato a tutta pagina. Pagina 13. Berlusconi, mi ricandido a Palazzo Chigi. L'ex cavaliere, che ieri ha chiesto uno sconto della pena per l'affidamento ai servizi sociali, sembra finalmente uscito dall'afasia, dal persistente depressione che l'ha accompagnato da più di un anno, scrive il Messaggero, da quando fu espulso dal Parlamento. Vuole bruciare i tempi, vuole tornare al più presto nell'agone politico ed economico. Insomma, vuole addirittura ricandidarsi a Palazzo Chigi. Lo scrive Alberto Gentili sul Messaggero. Voglio il giro di ritorno. Voglio prendermi la rivincita che mi spetta e sono sicuro che vincerò. Dicono i suoi, sembra tornato quello di un tempo. È tornato anche a raccontare barzellette e dunque per tutti Berlusconi vuole, per il Messaggero Berlusconi vuole tornare a Palazzo Chigi, o meglio candidarsi a Palazzo Chigi. Vabbè, vediamo la cronaca, rimaniamo sul Messaggero, perché l'inchiesta, come racconta Valentina Errante a pagina 14, che ha portato all'arresto di 22 persone, mette ancora Roma, dopo la vicenda di Mafia Capitale, al centro delle polemiche. 22 arrestati da Guardia di Finanza, funzionari pubblici di municipi, ASL, un imprenditore per un giro di tangenti fino a 8.500 euro al mese, vacanze pagate, lavori edilizi a costo zero, soldi e se non si pagava i ricatti. Non c'è solo Mafia Capitale, scrive il Messaggero, ma anche quella piccola rete che il procuratore aggiunto Caporale ha definito una corruzione endemica. La sistematicità, la naturalezza con cui i funzionari dei due municipi di Roma erano pronti a intascare mazzette benefit si potrebbe estendere a tutti gli uffici di Roma, dice Caporale. Il settore è quello dell'edilizia privata nella zona nord-ovest della capitale. Gli imprenditori chiamavano i tecnici addetti al rilascio dei certificati di abitabilità e comunicavano gli abusi che intendevano compiere, ma qualche volta erano gli stessi funzionari del municipio a contattare le aziende per spiegare che in caso di opere non a norma avrebbero ricevuto copertura dietro il pagamento di mazzette. Ah. Ogni giorno ha la sua pena da questo punto di vista. Vabbè, ogni giorno ha la sua pena. Dal punto di vista invece della storia raccontata ieri, e cioè di queste due donne che hanno fatto un figlio con una fecondazione assistita in Spagna, una ha messo l'ovulo, l'altra ha messo l'utero, e ovviamente invece il seme era da un donatore uomo sconosciuto, anonimo. Ora, queste due donne vogliono registrare il loro figlio, figlio di due madri, all'anagrafe di Torino. Ebbene, c'è uno sviluppo perché, racconta La Stampa, a pagina 19, il comune di Torino ha deciso di registrare il bimbo con due mamme. Andrea Rossi, sulla stampa, il comune di Torino trascriverà oggi nei suoi registri all'anagrafe il certificato di nascita del bambino concepito a Barcellona da due donne tramite fecondazione assistita. Ieri la città ha deciso di dare corso alla sentenza della Corte d'Appello che alla vigilia di Natale, ribaltando il primo verdetto del Tribunale, aveva dato ragione alle due donne, una scelta maturata sulla base degli approfondimenti giuridici degli ultimi due giorni e nella quale non è stata indifferente la volontà del sindaco. Dunque, scrive La Stampa, anche Fassino è d'accordo. Rientrato da Roma, Fassino ha ascoltato le conclusioni cui erano arrivati i dirigenti dell'anagrafe e quelli dell'avvocatura comunale e ha tirato le somme. Una decisione tecnica che arrivano ieri sera a Palazzo Civico senza risvolti politici né forzature ideologiche, tanto che il sindaco non ha voluto commentare, se non per dire la scelta si è arrivati sulla base di approfondimenti normativi e giuridici effettuati. Probabilmente però lunedì in Consiglio Comunale, dovendo rispondere a molte richieste di chiarimenti e critiche, Fassino dirà la sua. Sta di fatto che la decisione è quella di iscrivere il bimbo di due madri all'anagrafe e vedremo. Certamente le polemiche non finiranno qui, non finiscono le polemiche anche per quello che è successo a Sesto San Giovanni, una scuola materna dove sono piovuti pezzi di intonaco e calcinacci in classe, ferendo fortunatamente in maniera lieve 7 alunni. Il ministro all'istruzione Giannini fa un'intervista a Repubblica, intervistata da Corrado Zunino, parla del grave problema dell'edilizia scolastica. A pagina 26, il lavoro del governo sull'edilizia scolastica, dice, è un'operazione enorme, abbiamo un ritardo di decenni, una massa critica ampissima. E stiamo attraversando e affrontando questo problema con un'estensione di interventi mai vista prima. Certo, non possiamo garantire tutti nell'immediato, ma quello che stiamo facendo è finalizzato alla fine di questi episodi. Sull'edilizia scolastica il governo ci sta mettendo soldi veri e non solo sull'edilizia. anche abbiamo le risorse per riacquistare le sedie che si rompono, i toner delle stampanti, le risorse per non costringere i genitori a portare la carta igienica da casa. Io leggo queste cose e credo che viviamo su Marte, no? Cioè, avete sentito il ministro che dice finalmente abbiamo i soldi per non costringere i genitori a portare la carta igienica da casa e riparare le sedie che si rompono e avere il toner per le stampanti, non so, comunicatelo a tutte le scuole d'Italia. A me ancora sono arrivati appelli anche alla nostra scuola elementare: chi può porti dei fogli di carta. Ma ci rendiamo conto, la scuola pubblica? E infatti la domanda di Corrado Zunino è questo: ministro, si fermeranno le donazioni dei genitori? Cesseranno i contributi volontari delle famiglie, che nel frattempo sono diventati obbligatori? Risponde il ministro Giannini: dobbiamo eliminare il fenomeno dell'obbligatorietà, le richieste pressanti dei presidi. Chiederemo ai dirigenti scolastici di non utilizzare i contributi scolastici per la quotidianità dell'istituto, a cui deve pensare il ministero, ma per rilanciare la didattica nella scuola e farla crescere. Un genitore di fronte a un progetto chiaro può anche dare volentieri 100 euro l'anno. Ecco, il contributo deve tornare a essere una donazione liberale che contribuisce al miglioramento della scuola dei propri figli. Per le spese vive e per la carta igienica non deve più essere necessario. Ecco, capito? Non deve più essere necessario, cari genitori che già pagate le tasse, per la scuola pubblica portare anche la carta igienica. Potete sbattere in faccia i presidi che chiedono queste cose. Non so, l'intervista del ministro Giannini, non ce l'ho con i presidi, so che sono in enormi difficoltà a rabbattarsi giorno dopo giorno, però insomma il ministro Giannini dice che i contributi devono tornare liberali e non bisogna chiedere ai genitori, bisogna evitare che i presidi facciano queste richieste pressanti per chiedere fogli di carta e carta igienica per i culi dei vostri figli. A proposito di cronaca, il Fatto Quotidiano ha una notizia abbastanza interessante, una chicca, pagina 13. Tutto prescritto, Villa Wanda torna a Licio Gelli, il maestro venerabile della P2, che era accusato di aver evaso 17 milioni di euro, è tutto finito in prescrizione, dunque il giudice gli ha ordinato la restituzione della magione. Villa Wanda, che per la verità Licio Gelli non aveva mai abbandonato, visto che continuava a vivere lì, l'aveva mai lasciata, ma oggi a 95 anni, vissuti tra l'altro sempre nella casa di oltre 30 stanze su 3 piani, immersa in un parco di 3 ettari, situata in una delle zone più esclusive dell'Aretino, cioè la collina di Santa Maria delle Grazie, ebbene Licio Gelli rimane lì, ma ora rimane anche perché gli è stata restituita Villa Wanda ufficialmente. Tutto prescritto per Licio Gelli, alè, l'accusa di evadere 17 milioni di euro. Vabbè, c'è da commentare chi ha messo le foto di Renzi, e Libero ci ha fatto 3/4 di pagina. Cosa fa Renzi di recente a Courmayeur sugli sci, immortalato in queste foto? Si scontra con uno sciatore, la posizione e la posa sciistica del Presidente del Consiglio è alquanto goffa, almeno appare dalle foto. Incidente di Matteo, che non indossa il casco, peraltro non è obbligatorio, ma insomma sarebbe consigliabile, sulle piste di Courmayeur. Pirata delle nevi, Renzi fa cadere uno sciatore e scappa senza aiutarlo. Libero 3/4 di pagina. Ma non è questa la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, bensì è l'articolo di Thomas Leoncini sul giornale, 3/4 di pagina 21. Crudisti, vegani, fruttariani, è guerra tra le tribù del cibo. Gli ultimi sono i fruttariani, oppure i bresariani, quelli che si cibano di aria e sole. Ma chi se ne frega!